Buongiorno. Noi stiamo parlando dell'iniziativa dei Castelli per la Palestina, giusto? Che invita. Sì, è Resistere con la Palestina, al laboratorio sociale autogestito di Centocelle. Perfetto. Senta, io vorrei piuttosto, per cominciare, raccontare questa notizia che è stata detta ieri dal presidente della regione Puglia, Nike Vendola, a margine dell'incontro avuto con l'ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, Guido Ammeir. Era anche presente l'assessore del Mediterraneo, Silvia Godelli. Insomma, ha dichiarato che c'è una gamma assai variegata e ricca di possibilità di relazione, dicendo che Israele è un paese che ha fatto investimenti straordinari fin dalla sua nascita sull'innovazione, insomma, è un paese che ha trasformato aree desertiche in luoghi produttivi e in giardini, è un paese che si confronta col tema mondiale del governo del ciclo dell'acqua, dell'energia, di rifiuti con pratiche di avanguardia. Ha detto poi: penso che la possibilità di sviluppare reciprocamente le attività turistiche e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siano altri elementi importanti di una relazione che con la mia visita in Israele può raggiungere un punto di svolta. Dicendo questo, Maccaro Vendola, è caduta la maschera, credo. Di ecologia, patrimonio culturale, sfruttamento dell'energia rinnovabile, noi ci intendiamo diversamente. Sicuramente non è lo sfruttamento delle terre e dell'acqua negata ai palestinesi, come nella Valle del Giordano, nel Negev e in altre regioni della Palestina. Insomma, un momento anche di clamore ancora, sembra questa è la sinistra, altro che ipocrisia. Insomma, torniamo al nostro argomento, e per quello che accadrà oggi, 29 aprile, al laboratorio sociale autogestito di Centocelle, e per rompere il silenzio assordante che copre l'occupazione sinistra della Palestina, ai collettivi Castelli per la Palestina e Resistere con la Palestina, che da anni si interessano della questione mediorientale, e oggi dalle 18:30 presso il laboratorio autogestito di Centocelle in Viale della Primavera 319B a Roma, terremo un'iniziativa legata alla campana di boicottaggio, di disinvestimento e sanzioni. Verrà presentato Pecunia Non Olit, un dossier su rapporti economici italo-israeliani, che è un accurato lavoro curato dai compagni di Castelli Romani, e quello di ricostruzione degli stretti legami economico-politici che legano il vostro paese, oppure il nostro, allo Stato razzista di Israele, perché il denaro non odora e quindi non puzza come il cadavere di tanti palestinesi uccisi dalle forze di occupazione sioniste. Seguirà poi alle 21:30 lo spettacolo inedito Terra Madre Palestina, interpretato da Paola Toscano e musicato da Antonio Pignatiello e altri bravissimi musicisti. Lo spettacolo riprende la tradizione del teatro civile e di impegno per descrivere l'apartheid attraverso gli occhi di una madre coraggio dei nostri giorni. Proseguiremo con le letture di Gaza, Restiamo Umani, per ricordare Vittorio Arrigoni, unica voce che ha rotto il silenzio e del conformismo mediatico sui genocidi dei nostri giorni. Si concluderà con un aperitivo cena preparato dal laboratorio sociale autogestito di Centocelle e con un DJ set arabo curato dai giovani palestinesi in Italia. Durante la serata sarà disponibile una bellissima mostra fotografica sulla Valle del Giordano e Hebron, frutto del lavoro politico sul campo del collettivo Resistere, che documenta lo sfruttamento in atto da parte delle multinazionali israeliane in quella che un tempo era la terra più fertile e ricca d'acqua della Palestina. A proposito di Vendola, di quello che ha detto ieri, inoltre ci saranno spazi di dibattito in cui chiunque verrà potrà contattare, ricevere e fornire informazioni utili, nonché aiutarci ad organizzare altre presentazioni del disfiore dello spettacolo. Ovviamente siete invitati ad intervenire e diffondere il lavoro, perché insomma finanziare la carovana per andare a Gaza e rompere l'assedio tramite l'Egitto. Benissimo, io avevo presentato questa iniziativa scambiandola per una delle per un'altra delle tre iniziative che oggi ci saranno a favore del popolo palestinese, ma comunque è sempre giusto, insomma, più iniziative ci sono, più ci sarà solidarietà per questo popolo assolutamente segregato dallo Stato di Israele. Ma in realtà le nostre iniziative, altro che, cioè, insomma, sono parecchi gruppi di lavoro che si occupano e fanno iniziative oggi, sì, ma alla fine, ecco, comunque il fine è comune. Sì, ecco questo intendo a dire. Sì, certamente, ma non avevo dubbi, soltanto che avevo parlato dell'iniziativa che si svolgerà in un altro posto. Comunque oggi per fortuna a Roma ci sono tre iniziative in solidarietà con la popolazione palestinese. Noi pensiamo e speriamo che ce ne siano anche altre. Invitiamo tutti quelli che possono ad andare appunto al laboratorio autogestito di Centocelle e ci sentiremo sicuramente quando ci saranno altre iniziative da presentare e comunque, come si dice, fino alla vittoria. Vi ringrazio molto. Arrivederci, grazie, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao.